mi è dato fastidio che ho visto che alcuni sono saliti sul carro, quando invece le palate di cacca l'abbiamo prese io e i calciatori. Questo non mi è piaciuto zero, perché protezione nei confronti dei calciatori, nei miei confronti, niente. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano. Hanno tutti tirato troppo la corda. Anche Hamilton. Verstappen alla 6 in curva 9, Lewis Hamilton. Wow. Può esserci un incredibile colpo di scena. Incredibile. Vediamo se la porta a casa così. Arriva Verstappen. Non compare ancora da dietro, tra poco compare, eccolo là. Wow. C'è l'ultima curva per Lewis Hamilton. In modo incredibile. In modo incredibile Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Gran Bretagna. Errore della Red Bull. Ma forse poi bucavano anche loro, con Verstappen in seconda posizione, con Charles Leclerc che ringrazia e conquista, e anche la Ferrari ringrazia in modo rocambolesco il podio, il secondo podio di questa stagione. È finita così, come era previsto, quindi con la vittoria di Lewis Hamilton, ma con gli ultimi due giri che hanno avuto almeno il pregio di risvegliarci dalla formula noia che è stato questo Gran Premio di Gran Bretagna inguardabile per 50 giri su 52. Poi il valzer delle gomme scoppiate, soprattutto in casa Mercedes, ma non solo, perché ci ha lasciato le penne anche Sainz, che stava facendo una bellissima gara. Bottas è scivolato dal secondo all'undicesimo posto dopo pit stop. Hamilton non ha avuto tempo di rientrare perché era l'ultimo giro e ha salvato la vittoria per 5 secondi con Verstappen modello Conte, e cioè a mangiarsi i gomiti pensando a quello che sarebbe potuto capitare se per caso non si fosse fermato un giro prima per fare lui il cambio gomme, cercare il giro più veloce, lucrare su un punticino e finire invece alle spalle di Hamilton, quando probabilmente stando in pista avrebbe vinto la gara. Terzo Leclerc, secondo podio stagionale, l'unica consolazione di una Ferrari che oggi insomma è stata lì, si è battuta, a meno ha avuto il pregio di non farsi doppiare come è capitato 15 giorni fa. Saluto Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Saluto Umberto Zappelloni, ciao direttore. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, io lo dico subito, dalle 17.15, 17.20 apriamo il lungo approfondimento sulla situazione dell'Inter, che è esplosiva. Dopo le parole di questa notte di Antonio Conte, dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, cercheremo di raccontarvi anche un po' di retroscena e cercheremo anche di capire come andrà a finire, perché a questo punto è veramente impossibile escludere un divorzio a fine stagione tra Conte e l'Inter. Vi do subito i numeri per intervenire, aspetto anche le vostre telefonate. 800 24 00 24, numero verde, voglio sapere cosa ne pensate, se Conte ha ragione o torto, se sta esagerando, se quello che dice ha un fondamento di verità, oppure 349 238 6666, sms e whatsapp. Siamo in diretta fino alle 19. Carissimo Carlo, gli ultimi due giri hanno riscattato un Gran Premio veramente noioso. Sì, noioso per quanto riguarda la fuga delle Mercedes, no, tanto che non venivano nemmeno inquadrate. Dietro in realtà, con un sacco di safety car in pista, si sono visti molti sorpassi, si è vista molta battaglia, è chiaro, per le posizioni di rincalzo. Poi quegli ultimi due giri incredibili. Ora sì, si può discutere su Verstappen, si è fermato, altrimenti magari, anzi senza magari, avrebbe preso, avrebbe Hamilton vinto, con sì, la gomma esplosa, e però non è da escludere che invece quelli della Red Bull ci avevano visto bene, perché magari rischiava di esplodere anche lui, visto che ne abbiamo viste tre, prima Bottas, poi Sainz e poi Hamilton, tre anteriori sinistre che si sono sbriciolate, sono esplosi improvvisamente, quindi boh. Sì, tutti con lo stesso bene, problema, magari. Non lo so, direttore? Diciamo che la Mercedes si è fatta ingolosire troppo dalla doppietta, non è stata a controllare troppo l'usura delle gomme, pure la Pirelli, cioè l'abbiamo sentito prima del via, Mario Isola aveva detto che l'anteriore sinistra era a rischio per le caratteristiche di quella pista, e proprio l'anteriore sinistra è stata più esplosiva dell'Inter oggi, della situazione dell'Inter, è saltata quella di Bottas, è saltata quella di Hamilton, quella di Sainz, forse Verstappen avrebbe potuto rischiare, perché un secondo posto non gli cambia la vita, una vittoria avrebbe potuto dare un altro senso. Mancavano due giri, non aveva avuto nessun segno di cedimento sulla sua gomma, poteva magari anche rischiare. Certo che anche Hamilton ha detto di non aver sentito nulla fino a che la gomma non gli è esplosa in rettilineo, quindi evidentemente sono cose che avvenivano molto molto di sorpresa, senza nessun preallarme. Per toglierci ogni speranza anche per il futuro, non stiamo parlando di un problema di affidabilità. No, stiamo parlando di un problema dovuto alle gomme, che ci fa pensare che il prossimo weekend, quando ci saranno mescole ancora più morbide di quelle usate in questo, ci potrà essere qualche problema in più, quindi la Mercedes forse dovrà stare più attenta, però il dominio della Mercedes è così enorme che abbiamo visto Hamilton vincere su tre ruote, cioè talmente era il grande suo vantaggio e talmente lo è stato per tutto il weekend. Dovrà stare soltanto più attenta, e il campanello d'allarme suonato oggi con Bottas, poi con Hamilton che ha vinto su tre ruote, metterà che la Mercedes al riparo da brutti scherzi la prossima settimana. Insomma. Sì, probabilmente ci sarà anche un po' meno confidenza, un po' meno superficialità, esatto. Forse superficialità è esagerato, ma insomma no, Carlo, nell'idea di essere comunque indistruttibili, imbattibili, dover semplicemente capire e gestire doppiette in serie. No, ma anche perché, Joe, avevano tutto il tempo di fare un altro pit stop, di mettersi al riparo da ogni inconveniente, di vincere in scioltezza col gomito fuori dal finestrino anche oggi, quindi oggi certamente hanno sbagliato, certamente non sbaglieranno sulla stessa pista il weekend venturo, insomma. Direttore, giusto per toglierci il dente e la curiosità, che differenza c'è fra Giovinazzi che viene penalizzato perché buca e non si toglie dalla pista, e le due Mercedes? Sono rientrate subito, almeno è rientrato subito Bottas appena possibile. Hamilton era talmente solo che non metteva a rischio nessuno, insomma. Penalizzare Hamilton oggi sinceramente avrebbe fatto scatenare la polemica, perché non sarebbe il caso. Certo, la Formula 1 di oggi non è più quella di Villeneuve, che faceva più di un giro su tre ruote, non ci fa più vedere queste cose, però insomma oggi ci ha dato un po' di emozione quei due giri finali dopo che abbiamo dormito. Ma noi siamo contentissimi, però la domanda ce la stanno facendo, e quindi è giusto che ci togliamo la curiosità. Mi date il voto alla Ferrari, Carlo? Ma secondo me, insomma, con Leclerc buon voto, secondo me 7,5 per il weekend, perché è ovvio, tutte le contingenze, gli altri hanno avuto dei problemi, hanno fatto degli errori, però ha monetizzato comunque, al di là di ogni aspettativa, le sfighe degli altri, se vogliamo. Però insomma, è vero, ha fatto una gara senza avere la possibilità di andare a prendere quelli che c'erano davanti, ma anche senza dare troppa possibilità a quelli che inseguivano, quindi per Leclerc certamente il voto è positivo. Vettel, insomma, prema centrogruppo, cosa vuoi che ti dica? No, io dico solo i numeri: 33 punti Leclerc, che per carità ha una classifica deficitaria, ma i problemi della Ferrari li abbiamo oramai metabolizzati. 10 Vettel dopo le prime 4 prove. Vettel ha avuto almeno un sussulto di orgoglio nell'ultimo giro, quando è riuscito a salvare il punticino tenendo dietro Bottas. È stata l'unica fiammata di un weekend davvero deprimente dal suo punto di vista, non è riuscito mai a entrare in confidenza con la Ferrari di Silverstone. Leclerc ha ottenuto il massimo che poteva ottenere da questa SF1000, che era andata in pista scarichissima per cercare di stare davanti alla concorrenza che non si chiamasse Mercedes Red Bull, e ha portato in porto il suo obiettivo, arrivando anche al podio insperato e meritato, perché Charles non ha fatto nessun errore, ha anche tentato di saltare davanti a Verstappen all'inizio, però lì Max è stato duro e corretto e lo ha ricacciato indietro. Però va detto che insomma, dopo bastavano 10 giri e lui era a 10 secondi in 3 giri lui era a 10 secondi dalle Mercedes, e non ha mai visto neanche la Red Bull. Quindi questa è la Ferrari di oggi, il massimo che può ottenere è stare dietro le due Mercedes e le due Red Bull. Se poi una Mercedes e una Red Bull non arrivano, c'è il podio alla fine della gara. Sì, è davvero il massimo che si possa ottenere. Ma la domanda è: il cambio del board della Ferrari che abbiamo visto nelle ultime due settimane, secondo te, direttore, secondo voi, lo chiedo, ha prodotto qualche risultato dal punto di vista dell'aerodinamica? Perché hai parlato di Ferrari scarica, è chiaro che c'erano delle regolazioni diverse, può già essere il prodotto dei volti nuovi che speriamo di no. Sono stati messi lì? No, non scherziamo, anche perché sarebbe grave se il risultato fosse un alettone che sappiamo su una pista come Silverstone dal 1950, quando è cominciata la Formula 1 si va con un certo tipo di aerodinamica. No, dal 50 no, perché gli alettoni non c'erano, però insomma dagli anni 60, quando sono cominciati gli alettoni, a Silverstone si va con alettoni scarichi in un certo tipo. Si vedrà probabilmente qualcosa di nuovo nel film day che la Ferrari avrà a Silverstone dopodomani, però i risultati si dovranno vedere poi più avanti, perché non si producono con una bacchetta magica. E comunque il presidente ha detto che la Ferrari gode di ottima salute, quindi insomma è contento lui di questa Ferrari. Sì, ha dato appuntamento a tutti al 2022, non dopodomani, ragazzi. Dobbiamo mangiare questa minestra fino al 2022. Siamo al traffico. Prima di salutarti, Umberto Zappelloni, stai con Conte o con Marotta Suning? No, secondo me Conte è esagerato, però se tu vai a prendere Conte, sai che Conte ogni tanto può avere di queste uscite, le ha avute la Juventus, le ha avute quasi anche con la nazionale da cui poi se n'è andato. Insomma, Conte è questo, Conte è poi arrivato a un punto solo dalla Juventus, insomma, difende la sua squadra e deve trovare qualche nemico, insomma, il rumore dei nemici non faceva bene soltanto a Mourinho. Ti sorprenderesti di un divorzio da qui a fine agosto? Mi sorprenderebbe, però, perché se prendi Conte sai a cosa vai incontro e sai che non ti può produrre al primo anno il grande risultato. Si è avvicinato e poi la campagna acquisti potrà dargli un Inter per ottenere per provare il sorpasso l'anno prossimo. Finire adesso vuol dire che proprio la situazione è veramente più esplosiva delle gomme della Mercedes. Oggi, sicuramente. Certo, nel finale di questa gara di Silverstone. Grazie Umberto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a Umberto Zappelloni. Io vi aspetto 800 24 00 24, in diretta fino alle 19. Il traffico, poi apriamo la pagina dedicata ad Antonio Conte, al suo sfogo contro l'Inter, e vi proviamo a raccontare anche qualche retroscena. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Quest'anno è stato un anno difficile anche per noi, abbiamo ottenuto tante statistiche positive, significa aver lavorato tanto e di questo bisogna dare atto a tutta l'area tecnica. Questa è un'annata molto molto dura. Perché Antonio, a livello personale dici? Secondo me non è stato riconosciuto il lavoro dei calciatori, non è stato riconosciuto il lavoro mio, ho trovato scarsissima protezione da parte del club nei confronti dei calciatori e nei confronti miei. A fine anno ci sarà anche di parlare col presidente in Cina. Certamente l'allenatore Conte, che è stato veramente il deus ex machina di tutto, e poi con il grande supporto della società intera. Mi sento di dare il giusto merito a questi ragazzi, a chi lavora con questi ragazzi, ai magazzinieri, ai fisioterapisti, tutta gente che veramente ha fatto tanto, però solo a questi, ecco. Non voglio niente, il problema è che quando non mi piace quando la gente sale sul carro, la gente sul carro deve starci sempre, nei momenti positivi e nei momenti negativi. E qui all'Inter non è successo questo. Lo capisco anche perché se si è deboli è difficile poi proteggere la squadra e l'allenatore. Allora, questo teatrino è andato in scena ieri sera dopo la partita di Bergamo, che ha sancito secondo posto con tra l'altro punteggio da record dell'ultimo decennio per l'Inter, 82 punti, non capitava dall'anno del triplete, quindi dal 2009-2010, secondo miglior attacco, miglior difesa, 13 punti più rispetto all'anno scorso, 24 gol fatti in più, 3 subiti in più, ma insomma in un bilancio ampiamente positivo almeno dal punto di vista numerico. Tutta questa cosa è andata in scena dopo Atalanta-Inter, prima Marotta e poi Conte, e ha destabilizzato l'Inter come qualcuno che entra in una chiesa e lancia una bomba a mano. Andrea Ramazzotti, con dello Sport, ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti. 800 24 00 24, aspetto le vostre telefonate, voglio sapere secondo voi se Conte ha ragione o no, o ha esagerato, e diamo ampio spazio oggi ai vostri interventi. Allora, la mia premessa è, e poi chiedo conferma ad Andrea Ramazzotti, è che questo sfogo è covato da mesi, perché già in inverno, prima del lockdown, a prescindere dalle questioni di mercato, Conte era molto inquieto sul versante della comunicazione, di quella che lui chiama la protezione del club verso il suo lavoro, di come si presentava verso i tifosi a livello di aspettative, così inquieto da pensare anche di farsi affiancare da qualcuno per gestire diciamo la propria comunicazione. È sorprendente però, Andrea, che sia poi emerso tutto così in maniera quasi pianificata, fredda, ieri, neanche dopo una sconfitta come è capitato precedentemente. E allora uno può dire: a Conte si chiude la vena quando perde. È sembrato veramente uno sfogo quasi studiato a tavolino. Ma non è nemmeno il primo degli sfoghi di Conte, no? Quindi, cioè, a me sinceramente non stupisce per niente, anche perché anche nel post lockdown aveva già avuto altri sfoghi, aveva parlato di pacchetto preconfezionato che aveva ereditato, quando invece nella costruzione della squadra lui ha inciso molto con le sue indicazioni. E prima di questo lockdown comunque aveva avuto altri episodi, ricorderete, cioè non è che ve li devo ricordare io, quello di Dortmund dopo, però legati al mercato, legati a questioni tattiche, mentre mi sembra che ieri, al di là delle sue rassicurazioni, non sto parlando di mercato, abbia alzato il livello, si è andato a toccare altri temi. Quando ha parlato del calendario ha detto che noi, quando hanno fatto il calendario in Lega, forse non c'eravamo. Sì. Quello è un richiamo chiaro alla dirigenza, quindi insomma sinceramente non mi sorprende affatto che ci sia un conflitto interno all'Inter, anzi è una cosa abbastanza nota, ecco. Ma con chi ce l'ha allora? Cioè, ce l'ha con Marotta, ce l'ha con Ausilio, che è stato evocato diciamo anche per il suo richiamo a quell'intervista fatta a Spalletti? Sì, che insomma lì c'è anche la data sbagliata, non è di quella data lì, ma secondo me ce l'ha con tutte e due. Mi sembra abbastanza evidente, insomma, se uno fa 2+2 riesce a capire abbastanza facilmente. Insomma, ieri lui non ha fatto il nome di Marotta, ma sai, quando il tuo amministratore delegato va in televisione, giustamente celebra l'impresa realizzata da un gruppo di lavoro che è formato chiaramente da giocatori, dall'allenatore, ma da tutte le persone, e poi dopo arriva l'allenatore e dice: non mi piace, ti vuol salire sul carro. Insomma, poi magari sbaglieremo, ma l'associazione è quella che il messaggio fosse rivolto a Marotta. Carlo? No, ma è tutto. Innanzitutto lo sfogo è premeditato, questo è chiaro. Il carro, non saprei quale carro, dato che l'ha detto lui che il secondo posto è il primo dei perdenti. Poi, al di là dei numeri, quest'Inter è più forte certamente rispetto a quella dell'anno scorso. Basta guardare quelli che sono arrivati e il rendimento che hanno avuto a partire da Lukaku. Mi sembra fuori tempo, anche perché c'è un'Europa League da giocare e credo che per l'Inter sia discretamente importante. Resta il fatto che, se Conte avesse detto le stesse cose alla Juventus, la famosa frase del ristorante gli è costato, credo, il veto sempiterno da parte di Andrea Agnelli. Al Chelsea veniva lasciato in anticamera e nemmeno ricevuto dalla signora Marina Granovskaya. Ora, insomma, questo attacco così frontale all'Inter non può passare sotto silenzio. Sembra chiaro che lui sta scuotendo forte la pianta per vedere cosa resta attaccato sopra per costruire il futuro, ma questo mi sembra davvero tanto. Ma può essere paragonato quello che ha fatto ieri sera Andrea al discorso del ristorante da 100 euro dell'ultima parte della sua avventura alla Juventus? Io, se volete sapere la mia opinione, mi sembra anche più pesante quello sì, di ieri sera, sinceramente. Ma anche nelle intenzioni, quello era chiaramente uno sfogo fatto per farsi mandare via. Nelle intenzioni non lo so, perché non so quello che ha in mente Conte, questo non lo so. Io credo che dopo un secondo posto e a 4 giorni, perché l'Inter giocherà mercoledì, da una partita dentro o fuori in Europa League, che è l'ultimo traguardo della stagione, è uno sfogo che chiaramente lascia dei segnali all'interno della società. Poi se è un modo, se tutti i giocatori la pensano come Conte, è un modo alla Mourinho per compattare noi chiusi nel fortino contro tutti che ci assediano, e la strategia vincente è bravissimo Conte, altrimenti secondo me ha sminuito un piazzamento che, come giustamente tutti ricordano, un numero di punti che l'Inter non otteneva dal 2009-2010, è la miglior difesa, il secondo miglior attacco, il maggior numero di punti ottenuti in trasferta, tutto questo passa al secondo piano. A livello comunicativo è un disastro, se voleva però lanciare un messaggio, bene, l'ha lanciato, però ha sminuito il suo lavoro. Ma è credibile, chiedo a tutti e due, lo scenario di un esonero? Secondo me assolutamente no. Da parte della società assolutamente no, anche perché comunque Conte è un grandissimo allenatore e ha uno stipendio da top manager. Secondo me l'Inter non può permettersi di esonerare Conte. Anche se no, Carlo, bisogna capire quanto è contenta anche una proprietà di sentirsi dire il presidente voglio parlarci ma sta in Cina, detto con la faccia che aveva ieri sera Conte, no? No, ma allora per quanto riguarda l'esonero mi sembra che abbia ancora 2 anni di contratto che chiamano 11 milioni l'anno. Esoneri Conte, lo devi pagare, stai pagando Spalletti e poi dovresti prendere, quindi non credi a questo scenario ma no, mi sembra irreale. Però c'è da domandarsi se avesse detto una cosa così alla Juventus cosa succederebbe oggi. Io credo non l'avrebbe mai detto una cosa, cioè non avrebbe mai parlato in quel modo ad esempio alla Juventus. Andrea? Ieri sera se io gliel'hanno chiesto gliel'ha chiesto proprio Fabio Capello che ha fatto una domanda molto molto puntuale non ha risposto. Beh, sarebbe stata imbarazzante la risposta, qualunque risposta sia sì che no sarebbe stata imbarazzante. E se non è credibile lo scenario di un esonero, è credibile secondo voi lo scenario di Conte che si dimette un minuto dopo finita l'avventura in Europa League, che finisca mercoledì o anche magari con la Coppa in mano? Ma può starci di tutto, anche perché insomma le soluzioni non è che ce ne sono 1000, ce ne sono 3. L'esonero, io non ci credo, le parti che si mettono d'accordo magari dopo aver alzato l'Europa League e superano gli sapori, o chiaramente il terzo che Conte rassegna le dimissioni, cosa che comunque in passato lui ha già dimostrato di avere la forza di lasciare anche situazioni importanti, chiaramente mi riferisco a quella della Juventus nel 2014. Carlo? Bah, sarebbe abbastanza clamoroso però, perché ancora con 2 anni di contratto, cioè lasciare 2 anni di contratto in un club in crescita come l'Inter, che ha prospettive di costruzione vere, di mercato vere, lasciare lì questo progetto dopo un anno con le condizioni economiche che ci sono, a me sembrerebbe veramente folle, a meno che non abbia altre idee, altri contatti, altre cose da fare. Scopriremo vivendo. Grazie ad Andrea Ramazzotti. Ciao Andrea, grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Ciao, ciao. Alla prossima. Ci sono anche notizie su Alexis Sanchez e sulla possibilità che resti all'Inter anche dopo la partita degli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe. Ve le diamo poi dopo la pausa. 800 24 00 24, Gianluca. Sì, salve. Complimenti per la trasmissione. Grazie, vai. Lei è il migliore per me, Capuano. No, vengo dopo gli altri, prego Gianluca. No, sicuramente prima di Forlani, Arnaldo, il democristiano che non c'è oggi. Certo. Che invece noi rimpiangiamo. Dai Gianluca, fa il bravo. Assolutamente sì, dai, non scherzo. Ma in un'azienda con 200-300 milioni di fatturato, come suppongo sia l'Inter, o forse anche di più. 400-500. Chiunque, qualunque dirigente nel mondo normale, no? Qualunque dirigente facesse cose del genere, licenziamento per giusta causa, punto. È un uomo che non sa reggere, come ha dimostrato, ovunque sia andato, le relazioni, i rapporti normali, lancia messaggi in codice, talvolta orrendi, piccole cose mafiosette, incomprensibili per tutti. Io non so, a me sembra che sia abbastanza chiaro. Non mi protegge. Sono cose incomprensibili, io penso, per il 99% delle persone che guardano le partite di calcio. Lui ieri sera fosse uscito col sorriso, bene, Inter seconda un punto, anche se la Juventus ne avrebbe fatti 8 se non avesse già vinto lo scudetto, ma è totalmente incapace di stare a quel livello. Licenziamento per giusta causa, via, subito. Vabbè, questa è una tesi che gira fra tanti tifosi dell'Inter. Devo dire che la maggioranza in realtà ha un pensiero diverso. La maggioranza ritiene che Conte abbia attaccato in realtà anche all'esterno e abbia fatto bene, perché l'Inter viene trattata male soprattutto dai media, no Carlo? Tema che è sempre aperto storicamente quando si ragiona di Inter. Però Gio, allora te la prendi con i media, non con i tuoi dirigenti. Non capisco, non ha del tutto torto l'ascoltatore, è abbastanza difficile capire questi attacchi trasversali di Conte non mi hanno protetto abbastanza, in che senso? Non mi sembra che Conte non sia mai stato né criticato né messo pubblicamente con le spalle al muro per qualche risultato, quindi Chiaro che ti dà, questo è un attacco nei confronti di Marotta, è inutile che ci giriamo intorno di Marotta e di Ausilio, la proprietà è lontana, questo è un problema. Resta il fatto che licenziamento per giusta causa non lo so, però certamente in un club dalle radici solide delle esternazioni così non possono passare inosservate, anche perché a differenza di Mourinho teneva dentro tutto il gruppo societario. Non ricordo grandi attacchi di Mourinho nei confronti di chi lavorava con lui all'interno del club. Non so se tu te ne ricordi qualcuno. No, qualche puntura sul mercato, soprattutto sì. Per prima dell'inizio sì, della seconda stagione, quella del triplete, gioco. Qualche bacchetta di Harry Potter, però poi per il resto dentro il Fortino c'era tutto il mondo Inter e fuori dal Fortino c'erano gli altri, a partire dagli arbitri e dai media, e così Mourinho provava a compattare tutto l'ambiente. A proposito di licenziamenti, Conte c'è già passato, vi ricordo, però col Chelsea, che poi la causa l'ha vinta, quindi non è certamente una strada molto semplice da percorrere per nessun club in Italia e in Europa. Vi devo gli aggiornamenti su Alexis Sanchez, ve li do dopo la pausa, torniamo fra un minuto. 800 24 00 24. Conte, se macchia in una squadra un team che se macchia. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Non è facile migliorare le squadre buone, cercheremo di cogliere quelle opportunità, ecco, ma non è facile trovare delle opportunità che possono fare la differenza. Io ho una visione sempre, a differenza di altri, vedo un percorso che c'è da fare, ecco, se c'è voglia di farlo insieme, ripeto, non sto parlando di mercato. Il nostro obiettivo è quello di crescere, eliminare gli errori che magari sono stati fatti ma che sono fisiologici e naturali, alzare l'asticella in termini di qualità. Se vogliamo ridurre il gap con la Juventus, si cresce in campo, ma si cresce tanto e soprattutto fuori dal campo. Se si capisce che bisogna fare questi miglioramenti, il proprietario se lo capisce, anche perché, ripeto, ci metto sempre la faccia e la metto sempre davanti a tutti, però fino a un certo punto, perché poi ma nessuno è scemo. Parafulmine uno lo fa il primo anno, ma il secondo anno, ragazzi... Allora, un altro pezzettino di blob della serata di ieri tra Conte e Marotta. Carissimo Carlo, abbiamo richiamato un grande tifoso interista, di quelli che parla senza troppi peli sulla lingua, per chiedere a lui che cosa ne pensa. Mario Boni, ciao. Ciao, buongiorno. Ciao Marione. Allora, Carletto. Da che parte stai? Ma io sto, allora, quando succedono queste cose dipende prima di tutto com'è il rapporto proprio personale, e quello è la prima valutazione. Secondo, Conte caccia le palle e dà le dimissioni, poi la società può respingerle, però a quel punto quando tu prendi 11 milioni netti devi avere i coglioni da mettere le dimissioni subito, perché le accuse sono pesanti, probabilmente i rapporti non sono logori, anzi probabilmente poter dire quelle cose vuol dire che c'è un certo rapporto con Marotta, con la società. Però un'accusa lì devi per correttezza, anche per, come dire, a livello personale, no? Quando tu ti esponi così, da uomo, dai le dimissioni. Poi la società le respingerà, però devi avere il coraggio di far seguire alle tue parole le azioni. Carlo? Beh, insomma, Mario è andato giù pesante, ma non lontano da quello che potrebbe essere da quella che è la logica dei fatti. Mi sembra che siano chiari i riferimenti, nemmeno troppo velati, oltre che a Marotta ed è evidente anche alla proprietà. Quello sta in Cina, presidente sta là in Cina da mesi, non si fa più vedere. Mi sembra un forte richiamo alla società. La società, io mi aspetto che faccia sentire la sua voce, perché, ripeto, un attacco così duro e così frontale, io sinceramente non me lo ricordo. E comunque non può passare sotto silenzio. Mi domando perché sia stato fatto a 3 giorni da una partita che forse è la più importante dell'anno, perché credo che l'Europa League diventi, sia realisticamente il primo obiettivo stagionale dell'Inter. Non, mi sembra stia passando come un dettaglio. Ti sei sempre ammesso che interessi. Di gol fatti, subiti, eccetera. Ma come fa a non interessare? Non so, ma Mario, ti interessa? Ma certo, io Conte ha detto bene, Carlo, un attacco così forte, quando mancano pochi giorni a una partita importante, vuol dire non può essere così lasciato cadere nel vuoto. E la proprietà cosa deve fare quando ti spende, quando ha preso i giocatori importanti? Probabilmente il divario con la Juventus era già troppo profondo per in un anno recuperare, però a questo punto quando tu prendi 11 milioni netti, io vorrei che chi ha è un milione al mese, dai, è un milione al mese, cosa deve fare una società? Allora tu in quel momento devi dare dimissioni, tu immediatamente appena dovesse finire la stagione dai le dimissioni, poi la società prenderà decide. Anche io adesso fossi Zang direi benissimo, ci aspettiamo le dimissioni. No, io devo dire che Zhang Steven sarà in Cina da qualche mese, certamente, di fatto si è trasferito all'inizio del lockdown e poi non è più tornato in Italia, però la proprietà Inter è tutt'altro che lontana, esatto. sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista operativo, perché poi quando tu scegli un uomo come Marotta e gli dai pieni poteri gestionali del club, di fatto hai la proprietà in casa tutti i giorni, quotidianamente, che lavora con te, quindi questa mi sembra mi è sembrata, diciamo, questa annotazione fatta tra le righe da Conte, in questo caso mi sento di dirlo particolarmente sbagliato. Che idea ti fa, che reazione ti suscita il nome di Max Allegri, Mario? Beh, io sarei contento, cioè dopo sono contento di Conte, credo che sia un ottimo allenatore, un grande motivatore. Che voto dai alla stagione? Do un 7, perché sebbene non esaltante col Napoli si è perso, siamo usciti da Coppa Italia dopo una buona prestazione, arrivare secondi centrare la Champions, siamo soddisfatti, vediamo la Coppa come va, però ecco, sono soddisfatto di Conte, però cioè, prima arriva l'Inter, dopo c'è l'allenatore, quindi gli allenatori passano, i giocatori passano, la società rimane. Carlo? Beh sì, ha ragione anche in questo caso Mario. Voto 7 perché l'Inter è cresciuta, certamente non di più, però insomma ha messo, cioè, secondo me c'è uno stacco tra i problemi che possono nascere all'interno di un gruppo di lavoro, allenatore, dirigenti, presidente, proprietà, giocatori, queste sono cose normali. La cosa non normale è che venga esternata in questa maniera qui, perché o normalmente all'Inter volano le coltellate ogni giorno e allora la situazione è insostenibile, oppure mi domando per quale ragione Conte debba lavare i panni sporchi in maniera così smaccata e pubblica. Questo è ciò che mi chiedo. Ma Allegri potrebbe essere un normalizzatore? Chiedo tutti e due. Allegri è uno dei più bravi allenatori del mondo, sono sempre stato un suo estimatore, certamente è un normalizzatore, certamente è un allenatore tra molte virgolette aziendalista, quindi con la squadra che gli metti a disposizione, ovviamente ha le sue esigenze, ma con la squadra che gli metti a disposizione lui riesce a trovare il meglio possibile. Ad esempio io credo che un giocatore come Eriksen con Allegri sarebbe entrato al minuto 1, non so in quale posizione, e sarebbe uscito dopo la fine dell'Europa League. Questo credo di poterlo dire. Mario? Io credo che Allegri, prendere un allenatore all'Inter, ci vuole un allenatore che abbia vinto, in modo che abbia l'autorevolezza per rivolgersi ai giocatori. Allegri fa sicuramente il caso dell'Inter. Da qui ad Allegri ci sono dei passi importanti, vedremo le personalità in campo. Io credo che Zhang, la società, dica a Conte: beh, dai le dimissioni e vediamo se Conte a quel punto con che carte gioca questa situazione. Grazie Mario. A voi, ciao a tutti, ciao Carlo. Ciao, grazie a Mario Boni. Intanto l'aggiornamento su Alexis Sanchez, lo scrivono i giornali inglesi, è che prosegue e oramai è arrivata in fase d'arrivo la trattativa per provare a trattenerlo all'Inter. La base di trattativa, siccome il prestito non sarà rinnovato oltre la partita col Getafe, è diventata 15 milioni di sterline, quindi circa 16 milioni di euro per tenere Sanchez all'Inter. 800240024, Bruno dalla provincia di Monza Brianza. Bruno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Anche a te, però fermati perché non si sente nulla, Bruno. Fermati. Ecco, e così possiamo parlare di Antonio Conte e andare avanti nella nostra chiacchierata. Prego, Bruno. Volevo solo sottoporvi un paio di riflessioni. Conte, tutto sommato, non ha torto. Fino a 15 giorni fa si parlava di stessa annata che abbiamo avuto con Spalletti, e che secondo me è un po' una sciocchezza, diciamo così. Con Spalletti c'erano stati anche dei gran casini a livello di spogliatoio, eccetera, mentre Conte mi sembra che sia riuscito a compattare tutti, a coinvolgere più o meno tutti quanti i giocatori, quindi è un risultato diverso. In più il gioco mi sembra decisamente più diciamo più brillante rispetto all'annata scorsa, e non mi pare di aver mai sentito delle parole della società in difesa di Conte. Sì, che questa è la tesi di Conte, no, Carlo? Di non essere stato protetto sia nei momenti belli, quando si è alzata l'asticella delle aspettative, sia nei momenti difficili che sono arrivati a partire da gennaio. Ma certamente non abbiamo sentito molto spesso parlare Marotta e Ausilio, questo è una, questa è cronaca. Ma poi cosa deve dire la società? Cioè, i risultati sono lì da commentare. Perde in casa con il Bologna, con pareggi con Sassuolo, quelle partite che sono state la chiave di questo finale di stagione dell'Inter, poi ti riprendi, ma cosa avrebbe dovuto dire la società? Non mi è chiarissimo. Avrebbe dovuto piantare casino sulla questione dei calendari, anche questo mi sarebbe sembrato... Forse nella testa di Conte avrebbe dovuto chiarire per tempo che non c'era l'obiettivo di tornare subito a vincere lo scudetto, che essere usciti ad esempio nel girone di Champions non significava poter fare un confronto con l'eliminazione di Spalletti. Provo a mettermi nella testa di Conte, Carlo. Non saprei, secondo me l'eliminazione dal girone di Champions è stato nel complesso un fallimento per come si erano messe le cose, perché quella partita con il Barcellona B demotivato, tu la devi vincere, quel turno lo devi passare. Magari a Conte era stato chiesto effettivamente qualcosa in più, magari la società ha detto vabbè, ci sono delle cose che sono andate bene, altre che sono andate meno bene, però ti ripeto, questa esternazione così violenta e pubblica Non riesco a giustificarla con una sorta di silenzio societario. Non vedo cosa avrebbe dovuto dire Marotta in difesa di Conte. Cioè, non mi sembra che Conte non sia in grado di difendersi da solo, abbia bisogno del cavaliere che lo difende, o che sia stato attaccato in maniera particolare, perché onestamente Giovanni non è che gli ha levato la pelle qualche critica nelle scorse settimane, ma anche abbastanza ruvida, cioè, gli è arrivata. In casa col Bologna devi dire che ha fatto bene, non si può fare, perché se ti ricordi a un certo punto abbiamo parlato di remontade impossibile finché vuoi, sono arrivati due pareggi, però non, qualche critica mi sembra fisiologica. Cioè, Sarri lo stiamo criticando, lo stanno criticando, o alcuni lo criticano tantissimo dopo che ha vinto lo scudetto, che cosa deve dire? Jerry Milano, Jerry. Difende. Sì, salve, grazie per la trasmissione. Senti, io ho 58 anni, però non mi ricordo un allenatore che abbia mai avuto così tanti giocatori richiesti in pre e a gennaio come li ha avuti Conti. Cioè, lui ha avuto tutti i giocatori che ha richiesto, la società gliel'ha dato. Non capisco. Non è del tutto vero però, Jerry. Cioè, ad esempio, a gennaio lui voleva un certo tipo di centrocampista pronto, diverso dal punto di vista tattico e tecnico. Il nome era quello di Vidal, per intenderci. Ha avuto un grande giocatore che però è stato anche un grande equivoco tattico, e se mi pare di aver capito preso poco anche a livello di intensità di lavoro e di prestazione in campo. E stiamo parlando di Eriksen, poi insomma Mourinho il nome l'hai fatto te. All'Inter spesso gli allenatori hanno avuto quello che hanno chiesto. Vai Jerry. Va bene, però poi io non ho mai visto durante l'anno un pizzico di autocritica, certi errori evidenti. Conte, io sono interistissimo, Conte li ha commessi. Ci siamo salvati con lo Slavia Praga, motivo dell'eliminazione della Champions, con lo Slavia Praga, squadra emerita sconosciuta. Con il Bologna, sull'1-0 per l'Inter, Bologna in 10, Mihajlovic fa dei cambi perché tutte le due squadre erano una frutta. Fisicamente non le facevano. Conte i primi cambi li ha fatti al 75esimo e Bologna pareggia. Conte non è tipo d'autocritica, si conosce, è sempre stato così, e io credo che prendendolo l'Inter si sia presa anche a scatola chiusa questo lato del carattere di Conte. Ma quello che è successo ieri sera è qualcosa di diverso, secondo me. Ne abbiamo però parlato, continuiamo a parlarne se volete. 800 24 00 24, adesso c'è il traffico, poi buttiamo un occhio anche sull'Atalanta che prepara la partita con il Paris Saint-Germain. Oggi l'Equipe scrive che potrebbe esserci Mbappé. E basta parlare di Inter, guardate che c'è anche l'Atalanta, eh. per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24, 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Marotta, lei nel prepartito ci ha detto: Messi all'Inter è fantacalcio. Federico Balzaretti a fantacalcio ci gioca. Lei ci gioca a fantacalcio qualche volta? Purtroppo non ho tempo, è fantasia sicuramente, perché comunque è giusto rispettare Messi, è a Barcellona, continuerà sicuramente secondo me la sua esperienza in quella grande società, e quindi abbiamo definito un po' un gioco, e giochiamoci. C'era Marotta con noi, ha detto che vorrebbe regalarle Messi quest'anno. Guardate, sinceramente sono solo io che ho dovuto fare per far arrivare Lukaku all'Inter. Fidatevi che non è stata una passeggiata, non è stato semplice. Non è stato un regalo, quindi, No, non è stata una passeggiata, fidatevi di quello che vi dico. Anche questa cosa di Messi, Carlo, rischia di danneggiare l'Inter più di portare dei vantaggi anche a livello comunicativo. Eh beh, sì, sembra evidente, anche in questo caso la risposta di Conte è abbastanza irricevibile, cioè, come dire, Lukaku è venuto perché mi ci sono messo io, se no la società non l'avrebbe mai preso. Sembra che stia dando dei dilettanti allo sbaraglio a gente che, mi riferisco in particolare a Marotta, a lungo ha lavorato con lui e credo ci sia, non so sinceramente perché si sia almeno visibilmente così consumato questo rapporto tra Conte e Marotta. Anche in questo caso mi sembrano delle accuse ben precise. Messi è una grande suggestione che rimane lì sospesa come quella, la proiezione sulla facciata del Duomo, probabilmente non arriverà, però non credo che in sé possa essere qualcosa di fastidioso per l'Inter in condizioni normali. Evidentemente ieri ha dato fastidio anche questo. Simone Bologna. Simone, eccomi. Vai. Allora, no, secondo me, io mi immaginavo una scena ieri tipo Zhang in Cina davanti a degli involtini col telefono come Lotito con Ventura che dice qualcosa di male in cinese su Conte quando vede quei commenti, perché secondo me, cioè, non ha nessun motivo. O lui dice delle cose precise, quella volta che, ad esempio, perché sento la vostra trasmissione, Pardo dice che ci ho messo troppo a mettere Eriksen nella squadra, allora fa degli esempi concreti e dice delle cose circostanziate, se no dire così è solo buttare le mani avanti, prepararsi magari perché tutti gli diano ragione il prossimo anno, qualsiasi cosa, il solito pianina che insomma a me non è piaciuto molto. Grazie Simone, restiamo aperti, andiamo avanti anche domani a parlare di Conte, oltre che fino alle 19:00 8:00 24:00 24. Allora Carlo, ti faccio sentire Gasperini ieri dopo la sconfitta dell'Atalanta contro l'Inter. Va bene così, quella di questa sera è stata una partita che ci può essere molto utile in previsione della Champions, perché abbiamo trovato una squadra, l'Inter, che ha giocato un'ottima gara su dei grandi ritmi, un po' quello che ci aspettiamo di trovare dal Paris Saint Germain. È stato un campionato straordinario da parte di tutti i giocatori, abbiamo diritto matematico alla Champions, credo sia stato anche molto meritato. Che impressione ti ha fatto, Carlo, l'Atalanta di ieri sera e anche in generale l'Atalanta degli ultimi 10 giorni? Ma quella di una squadra che ha ben chiaro in testa quello che deve fare adesso, cioè affrontare Paris Saint-Germain con l'obiettivo realistico di passare il turno in Champions. Mi sembra che queste ultime partite, compresa quella di ieri sera, siano stati una grande preparazione a quella sera lì. È chiaro che mancherà un giocatore che pesa nell'Atalanta quanto Mbappé nel Paris Saint-Germain, che si chiama Ilicic, Giovanni. Oggi l'Equipe scrive che Mbappé potrebbe recuperare. Speriamo di no. Speriamo di no, perché, cioè, speriamo sì per lui, è chiaro che con le solite cose che si dicono, no? Che non sia niente di grave, che si riprenda, eccetera, ma magari dopo quella partita. Perché tu dici se anche si riprende un giorno dopo. Un giorno siamo tutti felici, insomma, siamo perché, tutti felici. Perché è uno che può far male a qualunque squadra anche da solo. Credo che, classica domanda, chi togliereste al Paris Saint-Germain? Io non ho dubbi, Mbappé contro l'Atalanta, quindi speriamo, vabbè, che recuperi, ma magari non così in fretta. Io ho rivisto venerdì sera al Paris Saint Germain finale di Coppa di Lega contro il Lione, vinta ai rigori. L'avevo vista venerdì scorso nella finale di Coppa di Francia, vinta contro il Saint Etienne. Devo dire, no, ho visto molto meglio Lione, ma ne parliamo dopo il GR delle 18, quando parliamo della Juventus rispetto al Paris Saint Germain. Sì, anch'io. Anch'io ho visto molto meglio il Lione, ma anche perché è una squadra molto più semplice da mettere in condizione. È una squadra che ha un piano preciso, un gioco preciso, che sa esattamente che deve andare a Torino a giocare specularmente su quell'1-0 dell'andata. Insomma, mi sembra una macchina meno complessa da mettere a punto rispetto al Lione. Al Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain è una squadra molto difficile, con equilibri molto fragili, che gioca sui colpi individuali, su alcuni suoi punti di forza, che non sono né tattici né particolarmente fisici, sono solo di strappi e di classe. Quindi credo sia quasi normale, no, che il Lione sia più organizzato, ma dall'inizio. E preoccupante per la Juventus, meno per l'Atalanta. Saluto, abbiamo veramente un paio di minuti. Bortolo Mutti, ciao Bortolo. Ciao. Come hai visto tu invece l'Atalanta di ieri sera e in generale degli ultimi 10 giorni? Ma ieri sera non è stata una buona Atalanta, diciamo, contro un buon Inter, che effettivamente l'Inter mi ha lasciato un'ottima impressione. Però l'Atalanta la conosciamo, una squadra che sicuramente ha un po' tirato il fiato e ha raggiunto i suoi obiettivi, e credo che questo finale non vada a incidere tanto sulle considerazioni che io ho, ma che penso in generale abbiamo sull'Atalanta. È una squadra, io penso, pronta ad affrontare il Paris Saint-Germain, una squadra ormai matura, cosciente delle sue qualità e della sua forza, e sicuramente non intimidita dal blasone della squadra. Io sono sicuro che farà una grande partita. Ma ha ragione Gasperini quando dice, l'abbiamo sentito prima, questa partita con l'Inter ci ha fatto bene perché ci ha spiegato che cosa significa alzare l'asticella, giocare contro una squadra che fa la Champions, che è abituata, che è una grande squadra. Beh sì, penso che sia stata una considerazione giusta in virtù proprio anche magari di quello status mentale che ormai la squadra pensa di aver acquisito, che invece devi sempre rimettere in campo tutte le volte, e soprattutto quando incontri squadre come l'Inter o come incontrerai prossimamente. Insomma, per cui sicuramente ha fatto bene a rimarcare questa cosa, però lì è un gruppo che lo segue, un gruppo molto compatto, coeso, per cui credo che avrà sicuramente la risposta che lui si attende. C'è un tema che poi tocchiamo dopo il GR anche su Sarri, per quello che ha detto ieri sera, ed è quello della spina da riattaccare. Pensando a Gasperini e l'Atalanta, cosa serve per riattaccare quella spina che è stata leggermente staccata? Beh, guarda, adesso sicuramente serve veramente l'obiettivo vero, quello che effettivamente già per la Juve dall'inizio del campionato, aver rallentato, aver un po' staccato la spina a volte fa bene. L'importante è quando la rimetti si vada a mille, come magari quando l'hai staccata. Forse per la Juve è un po' più complicata la cosa perché ha sempre un pochino balbettato, però credo che Sarri, insomma, per questo appuntamento, anche se sicuramente non è una partita facile, il Lione è una squadra sempre complicata e devi sempre rimontare, per cui richiede una partita di un certo tipo, veramente la partita perfetta. Sono anche partite che si preparano abbastanza da sole dal punto di vista della motivazione e quindi della spina da riattaccare. Grazie Bortolo. Sì. Ok, ciao. Ciao, grazie. Bortolo Mutti, ci risentiamo. Carlo, stai lì, c'è il GR delle 18. Poi abbiamo nel nostro menu Juventus-Napoli, la corsa per salvarsi tra Lecce e Genoa. Parliamo di arbitri, di Rocchi con VAR Anatomy, e parliamo anche di ciclismo. Dopo il GR delle 18. L'unica cosa bella che l'Atalanta faccia come il Cagliari degli anni 70. Speriamo in questi anni futuri. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. col cagnolino Reggie e il miciotello, i miei compagni di avventura. Insieme giochiamo nel prato, esploriamo posti nuovi e ci rilassiamo al sole. Per il benessere dei tuoi animali, scegli l'altissima qualità dei prodotti Virtus. Fino al 2 agosto, acquista crocchette Virtus Dog da 2 kg a 19,90 euro e scatolette Virtus Cat da 70 grammi a 99 centesimi. Alimenta il loro istinto. Scegli Virtus. I prodotti Virtus sono in vendita esclusiva da Arca Planet. Quando sarò grande, investirò in innovazione, prenderò nuovi impianti, assumerò tanto nuovo personale. Non smettere di pensare al futuro. È proprio in momenti come questi che con Gruppo Finservice puoi cogliere nuove opportunità. Gruppo Finservice può farti ottenere tutti i contributi che ti spettano. Chiama Gruppo Finservice. 894 24 24. 894 24 24. Chiedo subito tutti i contributi a fondo perduto che mi spettano. Gruppo Finservice. Leader della finanza agevolata. Nella classifica dei prezzi più amati dell'estate, questa settimana troviamo hamburger vitellone con Amore alla piastra, una ballad tenerissima. Convenienza tripla Coop, fino al 5 agosto, hamburger di vitellone origine Coop al meno 20%. Conviene a chi l'acquista, a chi la produce e alla salute di tutti, perché è allevato senza uso di antibiotici negli ultimi 4 mesi. La Coop sei tu. Convocati. Adesso abbiamo davanti a noi, a breve, a brevissimo, un altro obiettivo che è la Champions League e siamo tutti focalizzati su quell'obiettivo lì, a partire dalla gara di ritorno con il Lione, che sarà difficilissima, e auspicabilmente staccare il biglietto per la fase finale. Dobbiamo riaccendere tutte le spine che abbiamo staccato in questi giorni. Dobbiamo ritrovare energie fisiche, ma l'importante è ritrovare energia mentale, energie nervose, recuperare più giocatori possibili. Ho visto il Leone ieri sera, ma sinceramente l'ho visto. Domani voglio cominciare a studiare. Mi ha colpito il fatto che stanno molto bene fisicamente. Il problema del gol è un problema che si è manifestato dopo il lockdown, prima non molto spesso, e questo è un problema sul quale dobbiamo riflettere, cercare di ovviare, perché aver da rimontare una partita sullo 0-1 è chiaro, prendere gol ci complicherebbe la partita in maniera pesante. Rieccoci allora, intanto Spal Fiorentina in campo da 7 minuti 0-0 il parziale, è la prima delle 5 partite di questa domenica che chiude il campionato di Serie A, alle 20.45 Bologna-Torino-Sassuolo-Udinese, ma soprattutto Genoa-Verona-Lecce-Parma, con Genoa e Lecce che si giocano l'ultimo posto per rimanere in Serie A, tra qualche minuto ne parliamo, perché è una sfida veramente crudele a distanza questa fra Genoa e Lecce, una questa sera retrocederà in Serie B. 800 24 00 24, numero verde per intervenire, vi aspetto ancora su Conte ma anche su Sarri, su Agnelli che ha ringraziato tutti tranne il suo allenatore per lo scudetto, ad esempio. Altro tema da porre sul tavolo, c'è con me Carlo Genta, ciao Carlo. Eccomi qui Giovanni. E c'è Guido Vaciago, prima firma di Tutto Sport per la Juventus, ciao Guido. Ciao, buongiorno a tutti, buona domenica a tutti. Allora, provando a sintetizzare, alla fine, anche se chiaramente rischia di essere un'illusione ottica, la Juventus, la prima Juventus, chissà se l'unica Juventus di Maurizio Sarri, ha vinto di corto muso, un punto sull'Inter. Sì, ha vinto di corto muso, però dai, è anche vero che il campionato era finito dopo Juventus-Sampdoria. Secondo me, tant'è vero che poi ieri non sentivo un Conte recriminare un eventuale scudetto, lui reclamava che gli riconoscessero il secondo posto, non è che stava dicendo siamo arrivati a un punto. La Juve ha staccato completamente la spina dopo la partita contro la Sampdoria, anzi a dirla con Sarri l'ha staccata dopo la partita contro la Lazio. Questo mi ha stupito, Guido, adesso proviamo a parlarne. Mi ha stupito molto, anche perché se è vero che dopo la Lazio c'è stato un calo nelle prestazioni, io insomma sono andato a darmi un'occhiata. Prima della Lazio non è che fosse andata meglio la Juventus, KO con il Milan, pari a fatica, e ricordiamo tutti che fatica con Sassuolo e Atalanta. Sì, che il pari con l'Atalanta fatica ci può stare, perché stai parlando comunque di una forza importante del nostro campionato. Quello a Sassuolo e quello con il Milan erano due partite strane, quella con il Milan soprattutto, e poi quella con il Milan è stata quella che ha dato in qualche modo il via alla microcrisi o comunque alla strana crisi latente della Juve, che è riuscita comunque, nonostante questa crisi difensiva, a portare a casa il titolo. Però è indubbio che dopo quei 4 gol a San Siro si è aperta una crepa nella concentrazione della squadra. Non lo so, è un calcio strano, ce lo siamo detti tante volte ed è difficile esprimere dei giudizi, però adesso che abbiamo comunque 11 partite da giudicare e abbiamo quest'ultima fetta di campionato da poter giudicare, non possiamo pensare che la partita di venerdì contro il Lione sia una passeggiata per la Juve, e ieri mi sembra l'abbia tranquillamente ammesso lo stesso Sarri. Non so, Carlo, cosa pensi tu da una decina di giorni, no? Io batto su questo tema. Io credo che i fondamentali siano molto preoccupanti, lasciando stare, anche provando insomma a lasciare stare queste ultime due partite a spina staccata, come dice Maurizio Sarri. No, ma spina staccata, a motore spento. Oggi la Juventus ha vinto, come ha fatto oggi Hamilton, su tre ruote, perché dalla partita col Milan in poi, voglio vedere se non batte la Sampdoria in casa, Sampdoria demotivata, per prendersi lo scudetto. Queste ultime due partite facciamo finta che non esistano. Allora, i casi sono due: o la Juventus sta già da una ventina di giorni lavorando fisicamente in prospettiva Lione, lo escludono tutti, però mi domando se non sia effettivamente così, oppure ha problemi più seri. Io non ho dubbi che con i giocatori di esperienza che ha la Juventus quella spina verrà riaccesa, bisogna vedere se l'illuminazione è sufficiente. Io qualche dubbio ce l'ho, Guido. Ah, guarda, gli errori che abbiamo visto commettere ai giocatori, e in particolare nella fase difensiva della Juventus in queste ultime due settimane, sono talmente clamorosi che uno potrebbe, volendo dare una versione ottimistica della situazione, pensare che effettivamente sono dovuti a una spina staccata, perché quando vedi certi errori, certi clamorosi errori, non puoi pensare sia un problema tattico o sia un problema di forma. Dici ok, questo giocatore è fuori dal campo, questo giocatore non ha la testa sulla partita, e chissà, le motivazioni della Champions, la famosa musichetta, potrebbe effettivamente funzionare da rimotivatore, potrebbe funzionare da spina riattaccata. Però effettivamente se la Juventus è quella, anche soltanto quella di Juve-Lazio, una delle migliori partite dell'ultima parte di campionato, è comunque una Juventus che è molto più debole di quella che aveva fatto delle belle prestazioni durante il girone di Champions e che si sarebbe mangiata in un sol boccone la settima del campionato francese, settima o ottava, adesso non mi ricordo come è arrivato il Lione. Ora invece, se la Juventus, ripeto, anche fosse quella di Juventus-Lazio, deve fare una partita di grande fatica per fare due gol al Lione, perché poi ricordiamo, senza prenderli, senza prendere, vincere con due gol di scarto. E secondo me la Juve deve puntare a farne almeno tre, perché di questi tempi deve mettere in conto l'idea di farne uno. Ieri Sarri per l'appunto ha detto: dobbiamo fare molta attenzione, perché se prendiamo un gol la qualificazione diventa molto difficile. Secondo me, tutto sommato, avendo a disposizione quel tipo di potenza offensiva, in fondo non è così difficile. Però secondo me deve partire dall'idea che il 2-0 non basta, che se per caso dovesse porsi bene la partita deve cercare a tutti i costi il terzo gol, perché sennò poi il secondo tempo, l'ultimo quarto d'ora, potrebbe diventare un inferno, ecco, da questo punto. Ma Dybala riesce a recuperarlo? C'è molto ottimismo, anche lui ieri lo ha abbastanza ostentato con i compagni e con le persone con le quali ha parlato prima della partita. Si sente bene, non c'era lesione quindi muscolare, quindi in realtà si va molto a sensazioni. Verranno fatti ancora dei controlli, ma di fatto si baserà su quello che sente Dybala, e lui mi sembra di percepire, creda di potercela fare, di essere della partita. Giocare. Come del resto tutti adesso che si avvicina alla Champions League. Abbiamo parlato prima di Mbappé, no? E dell'ipotesi che possa essere disponibile nella partita contro l'Atalanta, a maggior ragione Dybala. potrebbe fare uno sforzo ed esserci per la partita della Juventus contro Lione di venerdì. Allora vi chiedo un minuto di pazienza, perché poi voglio capire da tutti e due come avete preso le parole di Agnelli, che ha citato tutti nei ringraziamenti per lo scudetto tranne uno, e quell'uno è sempre Maurizio Sarri, o anche le parole di Paratici, che dice non, Sarri non verrà giudicato sulla base di una partita, perché non è così che si giudica una stagione. Molti l'hanno letta in maniera rassicurante, dicendo quindi anche dovesse essere eliminato il progetto triennale va avanti. C'è anche in realtà un'altra lettura, e cioè che il giudizio sul lavoro di Sarri sia già maturato. Cercheremo di capirlo da Guido Vacciago. 800 24 00 24, il traffico, torniamo subito. Amanti delle scommesse, giocatevi 2-2 Juventus Lione. Ciao! Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, intanto 0-0 tra Spal e Fiorentina, 17esimo minuto del primo tempo, ripeto, gara che apre l'ultima mezza giornata del campionato di Serie A. Torniamo alla Juventus e ai temi di casa bianconera, Carlo Genta, Guido Vacciago, e io parto da qui. Escluso che Andrea Agnelli abbia avuto un'amnesia e che quindi sia stato frutto del caso, vorrei capire da voi come leggete il fatto che venerdì, presentando Andrea Pirlo, tecnico dell'Under 23 della Juventus, abbia citato tutti, ma veramente tutti, i componenti del suo staff tecnico per i ringraziamenti per lo scudetto conquistato, tranne uno, e cioè tranne Maurizio Sarri. Non so che auspici dobbiamo trarne. Inizia. Ma chi vuole? Allora, no, ma non lo so. Se... No, no. Vai Guido. Scusami, allora no, io non a volte l'esegesi delle dichiarazioni è un esercizio al quale mi dedico anch'io. In questo caso, guarda, salto questa parte, vado a quello che mi risulta. Quello che mi risulta è effettivamente che Sarri ha la fiducia da parte di Fabio Paratici e che è a capo dell'area sportiva. E credo che Fabio Paratici sia corretto nel dire che non sarà la partita contro il Lione a condizionare il futuro di Sarri. E credo che sia altrettanto sincero quando, in questo caso la settimana scorsa, quando ha detto lo stesso Paratici che Sarri sarà l'allenatore della Juventus per la prossima stagione. Non vedo peraltro delle grandi alternative sul mercato per prendere quella panchina. E poi la particolarità di come nascerà la prossima stagione, con un mercato aperto, con le due stagioni che quasi si fondono l'una nell'altra, secondo me potrebbero suggerire prudenza sul cambio di panchina, soprattutto perché parliamo poi di un allenatore che il suo obiettivo, almeno uno, lo ha raggiunto. Quindi non dobbiamo farci caso. No, bisogna farci caso in realtà. Quindi questo ti dico quello che in questo momento è il sentore dell'area tecnica. No, perché c'è anche chi continua a notare, ad esempio, che Allegri è stato che Agnelli è stato al fianco di Allegri nel giorno del suo saluto, è stato al fianco di Pirlo nel giorno del suo ritorno alla Juventus. Ed era seduto in prima fila, ma non al fianco di Maurizio Sarri il giorno della sua presentazione, precisando che è scelta di Paratici e Nedved. Non mi sembra che questo sia non è un mistero il fatto che quella è una scelta di Paratici e Nedved. Agnelli ha un modo di gestire la Juve che ormai abbiamo imparato. Lui delega molto, e le deleghe di Agnelli sono deleghe vere, non di facciata. Esatto, per cui Paratici può prendere una decisione senza doverla in qualche modo, senza dover convincere Agnelli di questa decisione. Poi naturalmente ne deve rendere conto, è quello che stavo dicendo, poi ne deve rendere conto. In questo momento siamo in una fase di, secondo me, in cui vengono soppesati tutti i pro e i contro. Io credo che i risultati alla Juventus contino, e quindi che quello scudetto ha un peso sulla bilancia sulla quale viene pesato il destino di Sarri, quella coppa ha un peso, le 7 sconfitte hanno dall'altra parte un peso, quindi nonostante la partita di venerdì, secondo me loro vogliano raccontarci, e forse tutto sommato in testa, nella loro testa è anche così, non incida, però sai, vediamo come va a finire venerdì, perché venerdì la Juve esce male, e a quel punto devi gestire una situazione un po' più complicata, e allora voglio capire, risentiamoci sabato. In fondo successe sabato, così, perché anche un anno fa dopo l'Ajax, quella sera lì. Dopo l'Ajax Agnelli diede una conferma perentoria di Allegri, perentoria. Io mi ricordo che arrivò a mezzanotte e un quarto, quando noi avevamo in qualche modo messo in dubbio il destino di Allegri, e abbiamo dovuto cambiare la prima pagina, perché a mezzanotte e un quarto il presidente si presentò in zona mista dicendo: Allegri sarà l'allenatore della Juve la prossima stagione. Insomma, Agnelli, che parla due o tre volte l'anno, sembrava avesse in qualche modo segnato la strada, e invece poi è andata diversamente. Più o meno un mese dopo quelle certezze si sono sgretolate. Io credo che come giocherà la Juventus venerdì sarà molto determinante, ma non bene o male, ma rivedere una Juventus meno molle, meno distratta, più dentro la partita. Sì, con la famosa scintilla evocata da Agnelli anche qui a fine febbraio, si aspettava lì però la partita d'andata, scintilla che all'andata a Lione non c'è stata, per questo io dico attenzione a dare per scontato che, siccome ha delle grandi personalità in rosa, automaticamente sia sicuro che la Juve riesca a riattaccare la spina. Non sempre è capitato, non è capitato a Lione, non è capitato un anno fa prima del ritorno contro l'Ajax, non è capitato quest'anno in Supercoppa con la Lazio, in Coppa Italia col Napoli, quindi attenzione, perché qualche segnale diverso c'è stato, senza voler fare del terrorismo prima di quello che accadrà venerdì. Anche perché secondo me, se proprio dobbiamo, io in queste ore sento una grandissima sfiducia dei parte dei tifosi nei confronti di Sarri, mi permetto sommessamente di dire che comunque dare tutte le colpe a Sarri forse è un po' troppo semplicistico, perché c'è da interrogarsi secondo me per questi blackout, per queste scintille che non scoccano, anche se c'è un problema di saturazione delle motivazioni della squadra, perché forse qualcosina va fatta anche nella squadra. Vi ricordate che l'anno scorso Allegri ne voleva cambiare 7-8? Evidentemente era una lettura corretta. Qualcosa, no? Aveva visto qualcosa. Certo. Carlo. Allegri è più esperto. No, ma ne avevamo parlato con Guido anche l'altro giorno. Cioè questa squadra è vicina alla fine del suo ciclo agonistico, della sua vita vincente agonistica, quindi va ristrutturata in maniera abbastanza profonda. Io sinceramente faccio fatica a pensare che, più che il modo, il prodotto, cioè il risultato della partita di venerdì, non possa avere un peso sul destino. Quindi, per quanto riguarda quell'amnesia di Agnelli, proviamo a rifargli la domanda sabato, insomma, sì, sabato. Perché davvero faccio fatica a pensare che Allegri è stato messo in discussione, è stato cambiato dopo 5 scudetti consecutivi, vinti di corto muso, di largo muso, in ogni maniera. Ha sbagliato la partita con l'Ajax, non la doveva sbagliare, e ha pagato quella responsabilità lì. Adesso faccio fatica a pensare che se la Juventus dovesse uscire con il Lione in Champions, possa sopravvivere. Siamo avanti tutti tranquillamente, senza nessuno scossone. Magari sarà lo scossone che porterà la conferma di Sarri, ma credo che quel risultato lì avrà un'importanza capitale, non sarà un dettaglio. Venerdì sera ora 21. Mi permetto di aggiungere, perché il discorso lo sottoscrivo tutto, a incidere sarà anche la disponibilità di alternative, perché io non vedo in questo momento nello scenario un allenatore che possa appassionare così tanto al punto da ricominciare un nuovo progetto a distanza di un anno. Per Pirlo è troppo presto, fosse metà della prossima stagione, magari si poteva anche immaginare, ma insomma, per Pirlo sarebbe veramente un salto nel buio. Grazie Guido. Grazie a Guido Vacciago. 0-0 sempre fra Spal e Fiorentina, 25esimo minuto del primo tempo, 8-0-0-24-0-0-24. Roberto da Milano. Roberto, grazie, complimenti sempre, grazie. Vi faccio le buone vacanze a lei e a Carlo Genta. Sì, tra l'altro la domenica andiamo in vacanza, torniamo domenica 6 settembre, ma restiamo qui sempre dal lunedì al venerdì con il format di questa estate fino alle 15.30. Prego Roberto. No, niente, riguardo al Mina, io sono, diciamo anche altre volte, io sono contento che adesso riconferma Pioli, e a quanto pare rimanga anche Ibrahimovic, perché ha proprio dato una scossa alla squadra, all'ambiente, quindi ha dato questa vivacità e vincente, diciamo, alla squadra che non sta sbagliando una partita. Insomma, sono contento per solo queste cose qui, devo dire che sono contento. E speriamo che il prossimo anno vada meglio. Beh, di sicuro il prossimo anno ci sarà un Milan apparentemente logico nella continuità con la cosa che si è vista di migliore nella seconda parte di questa stagione, non solo dopo il lockdown, ma ci sarà anche, Carlo, molta più pressione, perché non sarà più sufficiente rimettere in piedi una stagione nata male come questa, sarà sufficiente avvicinarsi a quel quarto posto e a quel ritorno in Champions League, che è un obiettivo irrinunciabile anche per il Milan. A proposito di Champions League, Carlo, ti faccio sentire Gattuso ieri sera sulle condizioni di Insigne che rischia di saltare il Barcellona. Io ancora la laurea da dottore non ce l'ho. Però il dottore, col dottore immagino avrà parlato. Parlato col dottore, parlato col giocatore. Speriamo che non sia nulla di grave. Mi stava spiegando Gattuso che sarebbe un problema all'osso, dove si innesta praticamente l'adduttore, quindi è un problema paradossalmente più osseo che muscolare. Parlate col dottore, se no facciamo i danni, diciamo robe non esatte, non lo so, vediamo. Dopo 48 ore farà una risonanza, radiografia e vediamo. Oh, sarebbe veramente una perdita gravissima, Carlo, se dovesse non esserci Insigne nella gara contro il Barcellona al Camp Nou. Il Napoli, ricordiamo, parte dall'1-1 casalingo, dunque da un risultato non positivo, ma visto il Barcellona di queste ultime settimane, con qualche speranza di poter pensare di fare il ribaltone. Certamente, anche al Barcellona, ma che erano un sacco, facevamo i conti l'altro giorno, li facevi proprio tu, no? A 13-14 giocatori compresi, disponibili. Ecco, appunto, quindi anche il Barcellona è ridotto ai minimi termini, ma come un po' tutti, da Ilicic, Mbappé a molti altri che in questa fase sono assenti, è prodotto di questa situazione strana. È chiaro che Insigne a Barcellona, contro il Barcellona, in questo Napoli, ha assunto probabilmente un peso specifico che certamente non ha avuto in tutta l'era Ancelotti, che aveva con Sarri, è ritornato un po' al centro del villaggio Napoli ed è una partita molto fit, secondo me, per Insigne, cioè, sarebbe un giocatore molto importante in quella partita con il Barcellona. Poi parleremo con i dottori, cosa vuol dire. Sì, Gattuso, non è chiaro. Gattuso ieri se l'è detto da solo, ma ha ragione, ha fatto un miracolo a tenere attaccata la spina della tensione a una squadra per 12 partite, avendo vinto la Coppa Italia senza nessun obiettivo da inseguire in campionato. No, ma in dubbio. Piccolo grande miracolo. Secondo me, piccolo grande miracolo, ma che nel quale ha molta componente, secondo me, è proprio la partita, l'obiettivo della partita con il Barcellona, che il Napoli vede non più così impossibile. Quindi la spina attaccata ce l'ha tenuta attaccata al Barcellona, paradossalmente. Poi il Napoli ha sfruttato questo periodo tra alti e bassi, perché ha avuto anche dei diversi passaggi a vuoto per i quali Gattuso si è pure arrabbiato, giustamente. Però io credo che già da qualche partita stia agonisticamente preparando quella gara lì. Quindi il Napoli ci arriva preciso, a condizione che ci sia Insigne, che ci sia l'organico al completo. Sì, anche ieri sera ha fatto una bella partita, quella con la Lazio, favorito anche dalla pioggia e da una temperatura certamente più accettabile rispetto a quelle di questi giorni. È comunque una squadra che sta bene e quindi sarebbe veramente un peccato dovesse perdere il suo capitano, il suo trascinatore Insigne. Vedremo nelle prossime ore. Noi ci fermiamo, un minuto di pausa. Quando torniamo, Carlo, diamo un'occhiata a quello che succede alle 20:45 tra Marassi, Genoa-Verona e Lecce. Lecce-Parma, una delle due, Genoa o Lecce, questa sera va in Serie B. Io sono un allegriano di ferro, però se prendi uno come Sarri non lo puoi mettere alla porta dopo un anno soltanto. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Aver ridato comunque a questa città la dignità di riuscire dalla Serie C dopo 6 anni, in una stagione solo per vincere la Serie B, e oggi lottarmi la Serie A fino all'ultimo giorno, io credo che per una neopromossa sia qualcosa di speciale. È normale che poi le emozioni, queste al triplice fischio, possono essere in un modo o in un altro. È normale che ci può essere o una gioia immensa o comunque un po' di delusione, ma non sarà mai una disfatta. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami. Non abbiamo da preparare l'ultima partita che per noi è importantissima e dobbiamo farlo con unendo l'aspetto emotivo a quello tecnico-tattico, perché solo così, come abbiamo fatto in altre occasioni, riesci ad aver ragione dell'avversario. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci. Cioè, noi siamo uomini di calcio, almeno io sono convinto dei miei ragazzi che andiamo a fare la partita come si deve, tutto il resto mi dà un fastidio enorme. Sono situazioni che ci hanno praticamente regalato giocatori, che c'è Veloso che è sposato con la figlia, io che sono stato là 9 anni, nessuno ha un rancore, niente, però andiamo a fare partita seria e quello che succede succede. Ci tuffiamo, carissimo Carlo, verso ciò che succede questa sera in zona retrocessione. Allora, la situazione è semplice: Genoa 36 punti, Lecce 35. Il Genoa gioca in casa contro il Verona ed è padrone del proprio destino. Il Lecce ospita il Parma. In caso di arrivo a pari punti, si salva il Genoa e retrocede il Lecce, perché nel doppio confronto diretto all'andata a Lecce è uscito un pareggio per 2-2. E al ritorno a Marassi, non tanto tempo fa, il 19 luglio, il Genoa ha vinto per 2-1 nel pomeriggio del rigore sbagliato da Mancosu e dell'autorete di Gabriel. Questa è la situazione. Intanto la Fiorentina si è portata in vantaggio alla mezz'ora, Ferrara contro la Spal, gol di Duncan. Saluto Claudio Onofrio. Ciao Claudio. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, io faccio fatica a trovare nella memoria una vigilia così diversa tra due ambienti come quella che abbiamo sintetizzato nella nostra copertina rispetto a questa vigilia di Lecce e Genoa, dove c'è chi cammina sul filo e sa di aver buttato via di fatto una salvezza acquisita 2 settimane fa, ed è il Genoa, e chi invece può parlare di questa sfida a distanza quasi da sopravvissuto, ed è il Lecce. Claudio. Sì, ma non solo per questo, perché obiettivamente quando il campionato è iniziato il Lecce era conscio di aver fatto già delle cose straordinarie venendo dalla C alla A, e comunque sapeva appunto di dover soffrire fino alla fine, mentre il Genoa, che l'anno passato proprio si salvò nell'ultima partita a Firenze, diciamo così, aveva intrapreso un percorso dal punto di vista degli acquisti dei giocatori che probabilmente si presupponeva potesse portarla in una zona tranquilla di classifica. E allora è ovvio che essere qui all'ultima giornata a lottare per l'unico posto ancora valido per rimanere in Serie A, non dico che accontenti il Lecce, ci mancherebbe altro, faranno di tutto per rimanerci, però voglio dire, l'aspetto emotivo, psicologico è sicuramente diverso rispetto a quello invece del Genoa, che insomma pensava veramente di fare qualche cosa di molto più positivo rispetto a quello intrapreso, diciamo, non solamente l'anno scorso ma anche nell'ultimo periodo dell'era Preziosi. Non si è più comportato, diciamo così, come all'inizio, dove veniva criticato per le cessioni, per troppi giocatori venduti, plusvalenze eccetera, però aveva una dimensione quasi sempre tranquilla come classifica, con appendici, diciamo così, anche in Europa League. Poi invece ha cominciato semplicemente a rischiare tutti gli anni l'osso del collo e a salvarsi sempre in fondo. Tu hai citato ieri, la sfida dell'anno scorso, il pareggio con la Fiorentina, tutt'altro che indimenticabile. Carlo, io non so quanto pesi secondo te l'approccio psicologico a questa serata. Ma da un punto di vista psicologico, ovviamente, ecco, in questo senso il Genoa è stato danneggiato, se così si può dire, in una tragedia che stiamo vivendo ancora adesso, per l'amor del cielo, qui stiamo parlando di partite di calcio e di sport, ma danneggiato nel senso che appunto avrebbe dovuto giocare nelle ultime 12 partite ben 8 in casa. E quindi ed è mancato il pubblico. Sai, insomma, voglio dire, lo sappiamo tutti cosa vuol dire, sì, anche come tensione, per l'amor del cielo, perché è anche un peso qualche volta, però non ti dà un vantaggio enorme giocare a Marassi con la gradinata nord che ti spinge tutto, e quindi in questo senso qui c'è stata una penalizzazione per quanto riguarda il Genoa, e lo stato emotivo è ovvio che è molto anacquato in questo momento, proprio perché per la mancanza appunto di un calore, ma qui non si tratta di Lecce o di Genoa, qui si tratta di un calcio che è falsato alla grande, che è dovuto andare avanti per circostanze, diciamo così, soprattutto finanziarie, economiche, per salvare la baracca, ma onestamente non ha alcun senso, ecco, vedere questo tipo di partite. Per cui, ecco, invece entrando proprio nel rapporto delle singole squadre, proprio per quello che dicevamo all'inizio, probabilmente la tensione è ancora molto più alta proprio per il Genoa. Perché? Perché un po' per la storia, un po' per tante cose e un po' per il fatto, come dicevo, che in partenza si pensava a tutt'altra posizione in questo momento del campionato, probabilmente, ecco, che insomma i giocatori di Davide lo sentiranno ancora di più, ma non con questo che vuol dire che Lecce non senta la partita, ci mancherebbe altro. No, ma questo non c'è dubbio, ma poi c'è anche un peso, perché quando tu batti il Lecce, vinci il derby con la Samp, vedi il Lecce perdere come ha perso Bologna, insomma io onestamente quel giorno lì era finita la corsa salvezza. Sì, è vero. Il Genoa, dopo lo stop, dopo il lockdown, onestamente è stato il Genoa di Davide Nicola solo in 2-3 occasioni al massimo, perché per il resto si sono intraviste veramente delle pecche importanti. Inizialmente sembrava solo a livello fisico, poi a livello mentale, poi anche tattico, e non ha più avuto quella baldanza, diciamo, che Davide aveva trasmesso in poco tempo ai propri giocatori, che venivano, e qui andiamo poi ad analizzare anche a tante altre cose, venivano da un doppio cambio di allenatori, e questo è uno delle pecche, secondo me, che hanno rappresentato, diciamo così, come dire, il fatto che il Genoa non si sia più riproposto a certi livelli, perché credo che negli ultimi 6 anni sono ben 8 gli esoneri e comunque gli 8 gli allenatori che siano passati in quella panchina. È ovvio che appunto poi quest'anno c'è stato proprio il culmine, no? Diciamo così, arriva Andrea Zoli, fa un buonissimo precampionato, pareggia Roma 3-3. Il peccato originale, Claudio, è stato quello. Cioè, Andrea Zoli era evidentemente l'uomo che doveva provare ad andare almeno più avanti di quello che è stato, tutto il resto è stato un salto nel buio. Tempesticamente, stavo dicendo appunto che dopo il pareggio a Roma, la vittoria con la Fiorentina, è perso con l'Atalanta al 95esimo, eri 1-1, poi con l'Atalanta, voglio dire, non è che hai perso con una squadretta. E poi in quel di Cagliari è già successo un mezzo casino, dove è stato un po' delegittimato Andrea Zoli all'interno dello spogliatoio da dichiarazioni che erano passate anche magari non in maniera ufficiale, e poi dopo sconfitta con la Lazio e altre cose, altre 3-4 partite, fino all'ultima 5-1 con il Parma. E poi oltretutto il cambio è stato effettuato con Thiago Motta, che tanto di cappello come giocatore, e credo tanto di cappello per averlo conosciuto anche in questo periodo come futuro allenatore, ma inappropriato al momento per il modo di pensare calcio e per il fatto che non aveva nessun tipo di esperienza fino a quel momento come allenatore. Ecco lì un altro errore. Quindi prezioso, diciamo, se l'è un po' tirata, e la sintesi è che è arrivato in questa serata di inizio agosto a giocarsi la permanenza in Serie A in 90 minuti, ripeto, col vantaggio degli scontri diretti, quindi dovessero arrivare a pari punti tra Genoa e Lecce. Il Lecce va in B e il Genoa si salva, ma a questo punto vediamo questa sera cosa succede, perché è davvero una sfida a distanza aperta a qualsiasi epilogo. Grazie Claudio. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Claudio Nofri. Intanto ha pareggiato la SPAL a Ferrara contro la Fiorentina 1-1, 39esimo minuto da Alessandro. La Fiorentina, ricordiamo, si era portata in vantaggio alla mezz'ora con Duncan. Allora, carissimo Carlo, ti abbiamo recuperato, c'è stato un problema di collegamento, e partiamo con VAR Anatomy con Luca Marelli. Il regolamento negli ultimi anni ha semplificato per assurdo alcune interpretazioni o comunque le ha rese più logiche. Secondo me quello che oggi c'è rispetto a prima, c'è molta più attenzione nei nostri confronti, perché abbiamo appunto uno strumento che è la VAR, che è uno strumento favoloso, ma che mentre prima certi errori potevano essere considerati passabili, oggi non sono passabili. Di conseguenza anche la piccola svista passa molto più osservata di prima. Secondo me l'arrivo della video assistenza è una cosa fenomenale per il calcio, perché moltissimi risultati sono molto più corretti rispetto a prima e c'è molta più giustizia, che è la cosa fondamentale secondo me. Così parlò Rocchi ieri dopo aver deposto il fischietto per l'ultima volta nella sua lunga carriera. Luca Marelli, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ha avuto anche l'onore dell'intervista post partita. Sì, è stato autorizzato ovviamente. Sì, chiaramente. Chiaramente. Come sappiamo ci sono delle regole piuttosto rigide. Devo dire che l'ho seguita l'intervista, è stata molto molto bella, molto molto bravo anche nella comunicazione Rocchi, che dimostra che la comunicazione è comunque una parte importante dell'attività arbitrale, perché in campo la comunicazione è fondamentale ed è il motivo per cui giustamente qualcuno alla fine gli ha chiesto se nel futuro ci saranno più incontri con la stampa, magari non in questa maniera, perché questa è veramente capitata in una partita che non contava nulla, in cui c'è stato anche qualche errorino, ma alla fine contava veramente poco, contava semplicemente riconoscere a un grande arbitro una carriera eccezionale, a cui è mancata solamente la finale di Champions League per una serie di motivi. Permettimi però di dire una cosetta, permettetemi di dire un pensiero personale. Vai. Io ho trovato veramente squallido, perché non tanti tifosi, perché i tifosi, vabbè, lo sappiamo come ragionano, ma taluni giornalisti come hanno salutato l'ultima presenza di un arbitro che in Serie A c'è stato per 17 anni per 263 partite. Io credo che noi abbiamo un grande problema di comunicazione all'interno del mondo arbitrale, ma abbiamo anche grande problema a livello di comunicazione, perché ci sono delle persone che soltanto essere definiti giornalisti è un insulto, perché il giornalista lo fa veramente e lo fa bene. Ma del resto a volte è facile rincorrere delle ironie pensando di avere dei consensi. Ieri ha smesso un grande arbitro, Gianluca Rocchi, che chiaramente, avendo arbitrato tante partite, ha anche fatto grandi errori, perché gli errori li fanno tutti. È stato discusso come tutti e come anche giusto che sia in un percorso di una carriera anche in crescita. E che io credo, non so che pensiero hai tu Carlo, in qualche modo probabilmente rivedremo poi nei prossimi anni nell'ambiente arbitrale. Certamente è stato un grande arbitro e tutti quanti, quando una fuori classe si ritira, sarebbe bello, giusto, legittimo rendere omaggio fuori classe. Rocchi è uno che, ma diceva giustamente Luca, anche in questa intervista di ieri sera dimostra di avere le idee molto chiare, di essere bravo nella comunicazione, e questo è un punto fondamentale, perché io da quando ero bambino che sogno di vedere gli arbitri in conferenza stampa dopo le partite, però questo è tutto un altro film, un altro tema, un altro discorso. Credo che, come altri suoi grandi predecessori, Rocchi sarebbe un peccato se il mondo arbitrale lo perdesse, con altre competenze, con altre mansioni, ma certamente ancora con un ruolo attivo in quel mondo lì. E quindi cosa fa da grande? Che impressione hai tu, Luca? Sono onesto, non ne ho la più pallida idea. Vorrei vederlo, considerando la caratura del personaggio che ho conosciuto tanti anni fa e con il quale ho percorso tutta la strada fino alla Cannes, poi chiaramente lui è andato avanti, io ho finito, però è sempre stato questo Rocchi, non è che si è formato negli ultimi tempi, sicuramente migliorato nella comunicazione, ma è sempre stato questo, una persona con le idee chiarissime. Io non lo vedo come disegnatore oppure come, io lo vedo come formatore, ma in un progetto completamente differente. Al momento purtroppo l'AIA è arrotolata su se stessa, ormai è ingabbiata in uno schema da 11 anni da cui bisognerebbe uscire, e che ha necessità di rinnovarsi molto profondamente a partire dai ruoli essenziali. Io mi auguro che succeda, però onestamente non vedo in questo momento una persona che possa dare una svolta a questa associazione è rimasta indietro di almeno una ventina d'anni. Cioè, quindi tradotto che possa prendere alle prossime elezioni, quando ci saranno, il posto di Nicchi e da lì provare a rifondare tutto. Non tirerò per la giacchetta mai nessuno, anche indirettamente come sarebbe in questo caso, perché le scelte sono sempre personali. Ti ho espresso una mia impressione in generale sul mondo AIA, che comunque conosco, non certo per sentito dire. Allora Luca, stai lì, abbiamo il traffico, poi facciamo due parole su Irratti e Mariani, che sono gli arbitri di questa sera di Genoa-Verona e Lecce-Parma, e poi parliamo anche di ciclismo in chiusura di questa ultima puntata della stagione di Tutti Convocati Weekend, che ricordo torna regolarmente in diretta alle 17 di domenica 6 settembre. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Eccoci insieme per l'ultimo blocco di questa puntata di Tutti Convocati Weekend, 1-1 all'intervallo tra Spal e Fiorentina, Luca Marelli. Allora, questa sera Errati, Genoa-Verona, Mariani, Lecce, Parma. Diciamo che non tutti i big sono stati usati nella partita forse più importante di quest'ultima giornata. Ma guarda, però devo dire che Rizzoli in queste ultime, anzi nel periodo post-lockdown, ha operato per una scelta un po' differente rispetto al pre-lockdown. Sono un po' saltati gli schemi, sono un po' saltate le alternanze e sta utilizzando molto gli arbitri in forma. Irrati, al di là dell'episodio di Brescia-Genoa, che oggettivamente è stato un errore molto grave, ha arbitrato benissimo, soprattutto nelle ultime partite. Mariani stasera sarà la 20ª presenza nel campionato, è l'arbitro più utilizzato in assoluto da Rizzoli. E attenzione, perché quest'anno Mariani ha decisamente operato un salto di qualità. Non è certamente l'erede di Rocchi, perché non esiste l'erede di Rocchi, ma è uno di quegli arbitri che l'anno prossimo verrà utilizzato anche per i big match, perché quest'anno ha compiuto dei passi in avanti notevoli, mentre invece Irrati, che ormai ha comunque 42 anni, è un arbitro di grande esperienza, è una garanzia per questa sera. Pensate bene, nel post lockdown di grandissime polemiche, a parte quelle strumentali, non ce ne sono state, proprio perché gli è favorita la condizione degli arbitri rispetto all'alternanza giornata per giornata. Grazie Luca. A voi, buona Luca. Grazie Luca Marelli. Allora, carissimo Carlo, ribadito il finale del primo tempo, Ferrara Spal 1, Fiorentina 1, è il momento di parlare di ciclismo. Telecamere fisse per Wout van Aert, che se la può godere, si può anche rilassare. Ci voleva un grande nome per questa gara della ripartenza dopo 4 mesi e mezzo, la Strade Bianche, la sesta monumento virtuale, l'urlo di gioia, Wout van Aert in trionfo a Piazza del Campo. Allora, ieri Carlo siamo riusciti a rivedere ciclismo, allora noi abbiamo chiamato Riccardo Magrini. Ciao Riccardo. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, ragazzi. Ciao, sì, finalmente dopo uno stop così lungo non era mai stato fatto, nemmeno nelle telecronache e soprattutto nel mondo del ciclismo. Ci sono dei corridori che insomma, dopo 5 mesi si sono ritrovati a correre una corsa bellissima e mi avete fatto sentire il commento finale di Luca Gregorio, che come fa le telecronache su Eurosport. Sì, che ieri ci ha trasmesso questo Strade Bianche. Carlo, che io ho accolto anche con un pizzico di emozione, oltre al fatto che è stata una gara durissima di eliminazione, come credo ci dovremo in parte abituare in questo mese di agosto pieno, no Carlo, di sì, appuntamenti di ciclismo. Anche perché non solo non li vedevamo da un sacco di tempo, ma anche loro non si vedevano allo specchio da altrettanto tempo, quindi credo sarà, come per il calcio, un finale di stagione molto strano, anche agonisticamente, tutto fuori tempo, tutto con un clima diverso, su strade diverse. Non vedo l'ora che sia sabato per la Sanremo, perché sarà una Sanremo, ovviamente, come non abbiamo mai visto, ma come non avremo mai visto il Tour de France, il Giro d'Italia, il Giro di Lombardia alla fine di agosto. Insomma, credo sia qualcosa di difficilmente pronosticabile. Da questo punto di vista, Riccardo, che indicazioni possiamo trarre dalla giornata di ieri? Ma guarda, che hanno fatto una gran fatica, quello l'abbiamo visto. L'abbiamo visto tutti, le immagini. È imprevedibile, è difficile fare pronostici, è difficile fare previsioni perché diventano corse imprevedibili, nemmeno i corridori sanno. Poi ieri, vabbè, ci sono state diverse cose che in televisione purtroppo non si sono viste, le cadute di Nibali, le forature di Alaphilippe, i guasti meccanici di altri tanti protagonisti annunciati alla vigilia, però alla fine è venuto fuori un campione, perché questo è un ragazzo giovane ma è sicuramente un campione nel ciclocross, ma l'aveva già messa nel mirino le strade bianche, ha vinto con merito e a sorpresa, inaspettatamente, io sono rimasto favorevolmente colpito dalla prestazione sia di Bettiol, che comunque ci aveva regalato una fantastica cavalcata al Fiandre l'anno scorso, ma di Roccia Formolo, che effettivamente è un bel secondo posto. Quindi due uomini italiani nei primi cinque, Diego Rosa decimo, ma i distacchi sono stati clamorosi, perché dal primo al decimo posto c'erano oltre 7 minuti, quindi cose abbastanza mai viste. E la Sanremo, per riprendere, la Sanremo sarà ancora di più, perché è un percorso nuovo che a me personalmente piace molto, perché bisogna andare avanti anche nelle novità. L'importante è che si arrivi in via Roma, però il percorso sarà tutto nuovo e non, insomma, sarà tutta una sorpresa anche per i corridori. Importante che si arrivi in via Roma, non si passi dal mare, perché altrimenti sarebbe un altro sport. No, belli. Ecco, intanto vi aggiorno, niente fratture per Nibali, c'è stato il comunicato. Bravissimo. Perché c'era anche il timore, insomma, che in qualche modo potesse essersi compromessa la stagione di Nibali. Invece tutti gli esami, ha scritto la sua squadra oggi in un comunicato, hanno escluso qualsiasi frattura, dunque non ci saranno ripercussioni sul programma agonistico del corridore. Carlo, tu che Milano Sanremo ti aspetti venerdì? Sabato. È impossibile da dire, cioè, io veramente non credo sia possibile leggere in anticipo, nemmeno per gli esperti, forse nemmeno Riccardo ce la fa, come sarà lo sviluppo delle gare di questa stagione. Poi è chiaro che queste corse tendenzialmente come quella di ieri le vincono i campioni, però momento diverso, clima differente, strade differenti, addirittura nel caso della Sanremo. Credo che, come per nel parallelo con il calcio, così come sia impossibile pronosticare il finale delle coppe europee così sui generis, anche ogni corsa diventi difficilmente pronosticabile in qualunque maniera. Non so se Riccardo riesce a leggere in maniera più precisa. O anche se c'è un corridore che ha il profilo particolare di quello che sa soffrire fino in fondo più degli altri, perché questo sarà probabilmente il ciclismo di questa stagione. Allora, se vogliamo andare a guardare statisticamente, sono tutti corridori abbastanza, quelli di ieri erano corridori abituati anche a correre il Tour de France, che ha dei calori incredibili, però tutti i corridori intervistati ieri, o comunque quelli che hanno finito, 42 soltanto hanno finito la corsa, e quindi già lì si dimostra la grande selezione. Ma ieri era una corsa particolare, le strade bianche è una corsa molto amata dai corridori, ma una corsa particolare. Diciamo che la Sanremo potrebbe cambiare un po' lo scenario, ma giustamente è difficile fare pronostici, ma è anche bello perché è imprevedibile, quindi ti può capitare che vince, magari, che ne so, Formolo, le dico una proprio grossa, perché insomma Formolo è uno che vince già poco, perché ha vinto 3 corse in carriera, e però è campione italiano. Ma come è andato forte ieri, e già alla UAE lui aveva corso, mi ha fatto piacere questo è un distinguo da fare, perché lui aveva già corso l'UAE Tour a febbraio, poi là è stato bloccato tutto e c'era le prime avvisaglie del Covid. Lui è stato un mese in albergo con i suoi compagni di squadra, compreso tutti quelli della UAE, in quarantena, e ha subito veramente non un danno, perché comunque in ogni caso avevamo fatto quello che dovevamo fare, però andava già forte a febbraio, perché si era piazzato sesto, aveva fatto 8° in classifica generale, quindi è ripartito alla grande. grande, cogliendo un secondo posto ieri molto molto bello e meritevole, nonostante tutto quello che insomma aveva subito. Lui non aveva contratto il virus, però... No, era rimasto incastrato, ricordiamo la vicenda, insomma, in quella lunga quarantena, chiuso in albergo. Grazie Riccardo. Grazie. Ciao, a voi. Grazie a Riccardo mille. Magrini, grazie anche a te Carlo, buone vacanze. Grazie Giovanni. Buone vacanze. Cedo il microfono da domani per tutta la settimana, divertitevi. Da domani per tutta la settimana, ricordiamo appuntamento dalle 14 alle 15.30, mentre l'appuntamento con tutti i convocati weekend è per domenica 6 settembre. Io ringrazio Valeria Bernardi per la diretta, Peter Bescapè per i montaggi, Claudia Schiattone in redazione per questa puntata ed Edoardo Lavezzari, titolare della preparazione di questo programma e mio compagno abituale di viaggio. Ciao a tutti, ci risentiamo a settembre, domani invece dopo il GR delle 14. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.